Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, ben arrivati, Luca Tremolada, sono le 16.08 e siamo in compagnia di Luca Salvioli. Buongiorno. E di Mario Cianflone, la prima volta ai nostri microfoni, ed è il capo servizio del servizio online del Sole 24 Ore Online, ma soprattutto è anche responsabile del canale Motori 24. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, oggi ce l'hanno chiesto i nostri ascoltatori, insomma, una puntata sul futuro dell'automobile. Allora, c'è chi pensa che il futuro dell'automobile sarà elettrica. Noi abbiamo una sola certezza, almeno ce l'ho io personalmente: tra 10 anni l'industria dell'automobile, così come la conosciamo, non ci sarà più. Beh, certamente magari non saranno 10, saranno 20, però è un'industria che sta vivendo una duplice tensione: da un lato una crisi, una difficoltà a fare ricavi e vendere, dall'altro la questione ambientale, sono dei limiti sempre più stringenti, e la risposta che si sta, diciamo, sta arrivando come uno spettro su tutti i produttori è quella dell'auto elettrica, nel senso che più o meno tutti ne stanno parlando, c'è chi è più convinto, chi meno. Ci sono altre soluzioni: efficienza dei motori a combustione interna, quelli che abbiamo adesso, c'è il metano, c'è il GPL. Certamente, ecco, l'auto elettrica è quella su cui sembra che molti convergeranno nei prossimi anni, forse decenni, e che prevede questo una rivoluzione. Questo lo penso io, ma lo dicono molti, esatto, osservatori più autorevoli di me. Come sempre, c'è sempre un osservatore più autorevole. Ecco, noi cosa facciamo? Chiediamo anche ai nostri ascoltatori se credono che il futuro sia l'auto elettrica, se sono convinti, se sono disposti a passare dal rombo di un motore a una macchina che, vero Mario, è silenziosa. Tu mi dicevi che, insomma, il rischio maggiore era quello di non vederle queste auto. Non sentirle quando arrivano. Esatto, non sentirle quando arrivano, che può essere un problema. E noi iniziamo un ciclo di puntate, tra l'altro, lo diciamo subito, su questi temi, per cui, insomma, probabilmente sentiremo anche un po' tutti i produttori di automobili, e cercheremo anche un po' di capire che forma avrà l'auto elettrica. Ma partiamo con un sondaggio, se non sbaglio, che è stato pubblicato sul Sole 24 Ore Online. Abbiamo fatto un sondaggio perché è vero che i protagonisti sono i produttori, le istituzioni e anche l'utility, volevo sottolineare, perché questa è una rivoluzione che prevede nuove centraline, nuovi sistemi di rifornimento. Abbiamo fatto un sondaggio perché poi lo decideranno gli automobilisti, se piace o meno, e abbiamo avuto dei risultati abbastanza incoraggianti per chi crede nell'auto elettrica, perché diciamo che la disponibilità teorica a comprarla è diffusa per l'80% in quelli che hanno risposto al nostro sondaggio. Tra gli aspetti più problematici da risolvere, quindi dai produttori a livello di ricerca, sicuramente l'autonomia della vettura, i chilometri per ricarica non sono ancora paragonabili minimamente con un'auto a benzina. Come dicendo, c'è un divario attualmente incolmabile. Tenete conto che la migliore batteria al litio per uso automobilistico, in 25 kg di peso, contiene la stessa energia di 20 cc di benzina, ovvero la lattina di Coca-Cola, quella piccola. Vi immaginate che per muoversi un po' ci vuole un bel po' di peso, 250 kg di batteria. Abbiamo già capito che a te piace molto l'auto elettrica, cioè già da questo primo... No, a me l'auto elettrica piace molto, anche perché è una vettura che non ha bisogno di cambio, è reattiva, ha un sistema di propulsione particolarmente efficiente. Sono scettico sulla possibilità di avere in tempi brevi un'autovettura che ha la stessa capacità prestazionale in termini di autonomia e di facilità di gestione di un'auto con un motore a combustione interna. Meramente un fatto tecnico. Qua torna il classico tema di quando si parla di qualcosa di futuro e futuribile, cioè non sono sul mercato ancora le auto elettriche di massa, arriveranno, si parla di 2011-2012, sono due approcci culturali. Un giusto cinismo per vedere, aspettiamo cosa succede, dall'altra parte diciamo diamo il tempo all'innovazione di dire la sua. Ti voglio dire l'ultima domanda del sondaggio, che alla fine, la domanda secca: saresti disposto a spendere di più per inquinare di meno? Hanno risposto di sì il 58% dei nostri lettori. Hai visto mai com'è salomonico Salvioli? Cioè, vabbè, posso, è molto salomonico, no, Salomone, è tremendo. Allora, me ne vado. No, quando chi sicuramente crede nell'auto elettrica è Renault, e noi abbiamo in collegamento Jacques Busquet, direttore generale di Renault Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, chiaramente, che forma avrà questa auto elettrica e quando arriverà? Insomma, partiamo con una domanda semplice. Sì, perché come ho sentito bisogna adesso essere concreti sull'argomento, quindi la prima domanda è quando e come è stato detto è sul il periodo del 2011-2012 che saremo lì presenti con una produzione in massa di vetture elettriche e con una gamma completa, perché noi abbiamo pensato a una strategia che vuole decisamente andare sul proporre al pubblico delle soluzioni diverse per il più grande numero. Non pensiamo che sia più l'ora di vedere l'elettrico come una soluzione di niche, ma piuttosto per una soluzione competitiva con altre soluzioni che ci sono oggi con dei motori termici classici. E quindi noi, come abbiamo potuto presentare al Salone di Francoforte poco tempo fa, avremo una gamma di quattro modelli, un furgoncino per trasporto merci, perché c'è una domanda molto alta su questo tipo di veicoli, particolarmente in centri urbani. Ci sarà una berlina classica a quattro porte e poi ci saranno due veicoli che verranno sviluppati attorno alla tecnologia elettrica per la prima volta. Una piccola utilitaria della dimensione. Al di là quindi la forma, mi sembra di capire, non sarà molto diversa da quella a cui noi siamo abituati. Tra l'altro ricordo il numero verde per gli ascoltatori 824 0024, per gli sms 349 238 66. Vedo che sta arrivando già qualche sms, ci sono dei tifosi della Toyota Prius evidentemente, perché sono quelli che anche sul marketing hanno, no Mario, comunicato prima il cambiamento verde. Sono stati i primi in assoluto a portare questa tecnologia dell'ibrido. Ormai siamo alla terza generazione di Prius, è stato un successo di nicchia, ma un successo. Ma sono anche in vantaggio rispetto agli altri sul fronte della ricerca? Toyota sull'ibrido ha ancora un vantaggio competitivo indubbiamente rispetto agli altri. Spieghiamo che l'ibrido, cioè noi parliamo di veicoli completamente elettrici quando appunto si alimentano solo così, e si parla di plug-in, quindi con la spina, proprio come il cellulare, tra l'altro con batteria al litio come quella del cellulare, esatto, o di tutti i device elettronici. Dall'altro lato, veicoli ibridi che già ci sono e sono andati anche oltre le aspettative, perché non è che se ne parlava chissà quanto bene mentre si idolatrava l'idrogeno, che poi è finito, esatto, un po' nel nulla. L'idrogeno c'è, la combustibile al momento sono come sistema per alimentare un motore elettrico, perché anche l'auto a cella combustibile è un'auto elettrica, tanto che anziché batterie di un certo tipo a batterie a cella combustibile. Gli esperimenti anche sull'auto elettrica, anche commerciali negli anni passati, come ricordo la Pandelettra, aveva batterie al piombo pesantissime, duravano meno di un anno e poi bisognava smaltire circa 800 kg di batterie, che non era uno scherzo per una Panda che ne pesava 1200 complessivamente. Ecco, torniamo a Renault e ricordiamo che questo è una delle prime puntate che dedicheremo all'A, per cui, esatto, avremo anche qui Toyota, insomma. Ecco, tornando a Renault, le domande che insomma stanno arrivando è prezzo sostanzialmente e ricarica, cioè quanto costerà l'auto elettrica o quanto costerà di più o quanto costerà di meno, perché no, e come e dove si farà la ricarica. Allora, come è stato detto, è importante che le macchine elettriche siano delle vetture di prestazioni equivalenti, se no non potremo parlare di una vettura per una soluzione a larga misura. Quindi sulla ricarica, che è la domanda molto importante, ci saranno tre soluzioni brevemente. La più estesa sarà la ricarica a casa o sul posto di lavoro tramite una presa classica, normale, a 220 volt, che prenderà un po' di tempo, diciamo tutta la notte, 6-8 ore. Poi c'è bisogno naturalmente di allargare questa soluzione. La seconda soluzione sarà una rete di ciò che chiamiamo noi le colonnine di ricarica, che in giro in città permetteranno di ricaricare all'80% la batteria in un tempo di 15 a 20 minuti. E poi ultimamente, anche se già uno o due paesi ha scelto questa soluzione per primo, ci saranno delle stazioni di scambio della batteria che potranno scambiare una batteria in 3 minuti. Quindi la combinazione di queste soluzioni dovrà agevolare la ricarica della batteria e far sì che non sia più impegnativo una macchina elettrica che una macchina a motore termico oggi, quando si fa il pieno di benzina o di gasolio. Ecco, però uno dei temi è, stiamo parlando noi sostanzialmente di city car, perché se io devo spostarmi da Milano a Puglia per andare in Puglia, diciamo che in un primo momento, a meno che insomma l'auto elettrica non diventi, lo vedremo anche nel corso della puntata, insomma, che ci siano centraline, bocchettoni ovunque, è complesso. Cioè voi come vi state, cioè come state ragionando quest'auto? Perché in questo momento il problema vostro è quello di proporre al mercato, dimmi se sto dicendo correttamente Mario, proporre un'auto che però poi sulle lunghe distanze non avrà un fornitore di carburante, per usare un termine improprio. L'utilizzabilità è quella prettamente in area urbana o limitatamente extraurbana. Al momento anche perché l'autonomia dichiarata delle vetture elettriche in autostrada con un carico costante, con l'acceleratore premuto a tre quarti per andare a 110 all'ora, si riduce di un terzo. Puoi fare 50 km con la migliore auto elettrica, quindi sì, non va da nessuna parte. Sentiamo Busquet. Sì, no, infatti sarà di più in termini di autonomia e le prestazioni saranno equivalenti a una vettura normale, si potrà fare più di 50 km in condizione normale. Però bisogna sottolineare questo, nessuno ha mai detto che l'elettrico o l'ibrido o qualsiasi altra soluzione più moderna, più avanzata, rappresenterà il 100% del mercato tra 10 anni, no. Pensiamo noi che rappresenterà una delle soluzioni e penso che bisogna rispettare e sviluppare tutte queste soluzioni per offrire diverse scelte ai clienti che alla fine sceglieranno loro, quindi io lo vedo non piuttosto come una soluzione o l'altra, ma piuttosto una serie di soluzioni che vanno nel senso dell'autonomia, dell'ambiente, del risparmio sul consumo e sulle emissioni. Quindi per noi naturalmente una vettura elettrica andrà molto meglio per qualcuno che fa 50-60 km al giorno, piuttosto che, come ha detto lei, qualcuno che fa 10.000 km alla settimana, però bisogna alla fine proporre delle soluzioni che siano diverse e ognuno sceglierà in funzione, come ha fatto la domanda, anche alla condizione naturalmente che economicamente si hanno delle soluzioni non più costose o poco più costose delle soluzioni di oggi, e questo è il presupposto delle vetture elettriche che stiamo sviluppando e lo saranno competitive. Ecco, ci sono arrivando un po' di domande via SMS. La prima, non si possono, e questo riguarda un po' il modello di business, cioè non si possono fare delle batterie da cambiare ad ogni distributore. Per cui lo chiede Roberto dal Mugello. Cioè, una delle soluzioni, mi sembra che l'abbia anche detta prima. Cioè, per cui io arrivo a un distributore, mi fermo, insomma, come avviene in Formula 1, no? Un cambio al volo di motore. Cambio al volo è l'idea di un israeliano che tra l'altro è stata Agassi è stata sposata, anche se non sbaglio, da Renault. Praticamente uno entra dentro una specie di autolavaggio e viene sostituito il pacco batterie. Ecco. Che è una cosa molto, molto comoda, molto pratica nel tempo di percorrenza di questo tunnel. Saranno 5 metri, uno entra in questa stazione, cambia il pacco batterie che esce da sotto il pianale, inserito un altro, abile, rullati, si mette in moto e si va via. E si va via. Tra l'altro la storia di Agassi è incredibile, perché questo ti dice anche un aspetto della frontiera dell'auto elettrica, nel senso che lui, numero 2 di Saab, ha mollato tutto, ha scommesso sull'auto elettrica fondando Better Place, e che appunto si propone, ha detto proviamo a risolvere il problema delle batterie così sostituendola, e sta riscuotendo un grandissimo interesse internazionale. Quindi il fronte dell'innovazione è legato certamente ai grossi produttori, ma ci sono startup californiane, cinesi anche, perché è diventato un baricentro interessante di innovazione sulla sostenibilità, che forse possono dirci qualcosa, come è stato nei primi anni di internet, in cui anche aziende piccole nate dal nulla hanno portato un contributo innovativo notevole. Abbiamo Stefano da Rovigo in collegamento, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare due considerazioni. Praticamente sulle batterie prima o poi andranno cambiate, quindi avremo il problema dello smaltimento, e poi per produrre l'energia per ricaricarle si spende ancora diciamo petrolio o altre fonti che non sono poi così ecologiche. Ah, no, sarebbe meglio magari investire sull'idrogeno, sull'auto idrogeno. Questo come è voleva fare una volta. Allora, questo qua è un, insomma, l'auto idrogeno è una scommessa incredibile, però insomma siamo ancora lontani. Obama ha tagliato i fondi alla ricerca sull'idrogeno, li ha dati a tutti, ha tagliato sull'idrogeno. Questo qualcosa forse può voler dire a livello scientifico sulle prospettive. Perché a te piace Obama, cioè, ma non è che uno lo deve proprio Viene preso come paladino di queste cose, so. No, in realtà le cose sono un po' diverse. A parte il fatto con un sistema ben inefficienza di distribuzione di energia elettrica per l'autotrazione, si sposterebbe anche le emissioni dallo scappamento alle centrali, magari anche con un miglioramento complessivo della qualità dell'aria. Sull'idrogeno non va dimenticato che l'idrogeno non è una fonte energia, è un vettore energia, trasporta energia da un posto all'altro, e per non esiste libera natura, per utilizzarlo bisogna spendere molta energia, certo. E questo al momento non si è rivelato fattibile a costi convenienti, anzi con una pericolosità in più, perché l'idrogeno è un gas compresso, deve essere compresso a 250 bar. Non è che non è infiammabile l'idrogeno, c'è anche un problema di stoccaggio. Sì, che non è facilmente trasportabile. Insomma, è da maneggiare con cura. Noi abbiamo in collegamento anche Alessandro Bartolini, responsabile dei sistemi di automazione di A2A, una multiutility. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Può sentire un secondo? Abbiamo una telefonata e la sentiamo con lei. Abbiamo Cesare dalla provincia di Latina. Buongiorno Cesare. Sì, buongiorno. Vabbè, in parte la domanda l'ha fatta il radioascoltatore precedente. La mia domanda era sul fatto che tutta questa energia per l'auto elettrica, poi da dove proverrebbe? Si dovrebbero fare centrali nucleari e quindi non ne parliamo proprio. Poi la seconda domanda dal punto di vista tecnologico delle batterie. Io ho visto l'evoluzione che c'è stata con i telefonini. C'è stata un'evoluzione molto forte, quindi i primi telefonini le batterie duravano 6 ore, adesso durano magari anche una settimana, quindi volevo chiedere se quella tecnologia potrebbe avere lo stesso passo, lo stesso miglioramento. E poi un'altra domanda, cioè un'altra considerazione comunque, non ci dimentichiamo che comunque i carburanti, tutto quanto, non hanno soltanto un problema ambientale, lo Stato italiano o lo Stato, anche se tutti gli Stati europei, senza gli introiti derivanti dal carburante non andrebbe avanti neanche 15 giorni. Ecco, quindi, questo è un tema, quindi non ci illudiamo, poi quindi da qua diventerebbe conveniente fino a un certo punto, perché poi quelle entrate dovranno entrare da qualche parte. Bisogna anche affrontare la disponibilità di combustibili fossili nei prossimi decenni, qua è un tema di cui si parla da tantissimi anni, però Pico quando parlo con i produttori tutti dicono, beh, i grossi scenari anche dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, quando guardano fra 30-50 anni si pongono seriamente anche quel problema lì. È un altro dei driver di questa ricerca. Sì, è anche vero, giusto, che c'è anche un tema delle accise che non avevamo pensato. Chiaramente il tema, questo è un tema che non interesserà moltissimo Alessandro Bartolini di A2A. Però lui ci può rispondere sul discorso dell'inquinamento. Volevo ricordare una cosa di A2A. Loro stanno facendo una sperimentazione, come succede in molti posti del mondo, insieme per l'appunto a Renault. Sperimenteranno nel 2010 delle colonnine a Milano e a Brescia. Inizialmente saranno poche centinaia, con qualche decina di macchine di Renault, proprio per vedere come si può costruire questo ecosistema. Ovviamente ci vogliono dei periodi di prova prima, perché è una grossa rivoluzione, come già abbiamo visto. E la domanda che io gli farei è sicuramente sull'elettricità: quanto inquina l'elettricità, quindi la produzione energetica nelle centrali che conosciamo, rispetto invece alla combustione di un motore? Beh, sicuramente è stato accennato anche prima, no? Tutto dipende da come viene prodotta questa energia elettrica. Che noi come ABA... Bartolini, sentiamo piuttosto male, per cui adesso la risentiamo e poi la richiamiamo e poi ci colleghiamo nella seconda parte della puntata, insomma tra pochissimo, perché proprio non si sentiva bene la domanda. Tra l'altro io mi collego un attimo, lo chiedevo una cosa a Mario, perché stanno arrivando molti sms, anche perché si stanno cercando di capire, di immaginarsi che dimensione avranno queste batterie. Tu ne hai vista già qualcuna, qualche salone dell'auto? Cioè, perché qua si parla di batterie pesanti, non una batteria piccola che si prende e si sposta. Allora, sono batterie molto ingombranti, perché sono costituite dall'aggregazione di tante celle a ioni di litio. Ecco, ma all'incirca quanto grosse sono, per farci circa un metro cubo, ecco. Circa un metro cubo. Intanto nel frattempo è tornato Bartolini. 250 kg di peso, ecco. Prego. Eccomi. Allora, stavo dicendo, sì, infatti come diceva l'ascoltatore precedente, un problema dell'energia è come la produco. Io posso abbattere ovviamente l'inquinamento, ma devo avere una produzione che sia una produzione ecocompatibile. Noi come A2A siamo abbastanza avvantaggiati dal fatto che abbiamo un grosso potenziale di energia idroelettrica, quindi andiamo sia a spostare l'inquinamento verso l'esterno, ma con l'idroelettrico andiamo a compensare sicuramente una buona parte. Bentornati, Luca Tremola dal microfono, sono le 16.33, stiamo parlando di auto del futuro, lo facciamo con Luca Salvioli, Mario Cianflone, entrambi della redazione online del Sole 24 Ore, poi abbiamo in collegamento Jacques Busquet, direttore generale di Renault Italia, e Alessandro Bartolini, responsabile dei sistemi di automazione di A2A. Ecco, molti gli sms, ci si domanda se l'elettricità non salirà ai prezzi, fino ai prezzi del petrolio nel momento in cui ci saranno solo auto elettriche. Qualcuno si pone il problema di come faranno gli sceicchi se ci saranno solo auto elettriche, insomma si dipingono via sms degli scenari, però proprio a proposito di scenari volevo capire da Mario, che è responsabile del canale 24 motori del Sole 24 Ore Online, insomma, quali sono i modelli che si stanno preparando, stanno scaldando i motori, per usare una frase già fatta, stupida, però. Poi non si scaldano quelli elettrici. Che non si scaldano quelli elettrici, lo non sapevo. Si scaldano quelli a benzina. Lo sapevo. Ecco, quali sono insomma i nuovi modelli che si stanno affacciando, va bene se dico affacciando, sul mercato? Sì, okay. Corretto. Allora, sicuramente in vetta, almeno ai sogni automobilistici, c'è la Tesla, che è una... progetto interessante californiano di una vettura un'ipersportiva a propulsione elettrica. In Stati Uniti ha avuto molto successo, chiaramente una macchina per pochi, costa 100.000 euro, prestazioni straordinarie, cioè, missile, cioè. È veramente una gran vettura, e affiancata a questa adesso arriverà in Europa, sarà possibile acquistarla, ci sarà la Smart elettrificata di seconda generazione, già noleggiabile con formule di acquisto a consumo, chiamiamolo così, in Inghilterra, arriverà anche in Italia in qualche modo. E poi c'è la Mitsubishi, insieme a Citroën, Peugeot Citroën, sta portando in Europa una city car elettrica di buone prestazioni, con ricarica in mezz'ora per il 70% della necessità energetica. Questo è lo scenario per quest'anno. Da qui al 2012 ci saranno molti altri modelli, in particolare 4 modelli Renault che citavamo, e alcuni della consociata Nissan. In particolare una vettura molto, molto interessante, si chiama Leaf, presentata adesso in Giappone, che ha il doppio sistema di ricarica, sia la spina tradizionale, come quella a aspirapolvere del 220, sia quella per il colonnino classica, quella grossa. Ecco, c'è un ascoltatore che si domanda, ma si potrebbe pensare a colonnine di ricarica ad energia solare? Bartolini? Noi abbiamo degli ascoltatori che sono super interessati e insomma super attenti anche ai temi ambientali, non so se l'ha capito. Sì, no, certo, sicuramente anche questo di colonnine alimentate anche da energia solare è una delle ipotesi del futuro, perché queste auto, per essere ricaricate, avranno bisogno di avere dei parcheggi, quindi questi parcheggi potrebbero essere dotati di tetto con pannelli fotovoltaici. Ecco, voi dove le metterete le colonnine nella sperimentazione? Cioè, se mi devo immaginare di avere un'auto elettrica, dove la ricaricherò, non potendo immaginare un distributore normale per il momento, anche se Busquet diceva che si potrà pensare anche a quello per una ricarica dell'80%? Noi facciamo la sperimentazione proprio per questo progetto pilota ha l'obiettivo di installare 270 punti di ricarica tra Milano e Brescia, circa un 200 a Milano, una settantina a Brescia. Interessante. Quindi questi, però, quando dico punti di ricarica, sono proprio i punti di ricarica, non sono le stazioni, perché una stazione può essere, normalmente sarà una colonnina con due prese, ma in alcuni posti, per esempio i parcheggi di interscambio dell'ATM, potrebbero esserci più colonnine, quindi magari 10 punti di ricarica tutti concentrati in un solo punto. Allora, sì, prego. Sì, no, per cui noi contiamo di installare, diciamo, in aree pubbliche circa 60 punti di ricarica nelle aree pubbliche. Quindi dove uno parcheggia solitamente? Sì, diciamo che adesso stiamo prendendo in esame dei punti all'interno dell'area di Milano, e poi altro discorso va fatto per Brescia. Va bene, poi diceva la seconda? Poi una quarantina sulle diciamo dove ci sono dei parcheggi di interscambio dell'ATM, e poi ci saranno una sessantina aziendali interni, quindi aree private aziendali, dove hanno il blocco, tipo la stessa A2A, e poi una quarantina invece di clienti privati, proprio privati a tutti gli effetti, ecco, in modo tale da avere proprio una visione globale complessiva. Esatto. Ecco, noi abbiamo in collegamento anche Andrea Valcalda, responsabile di ambiente e innovazione di Enel. Qui insomma sto leggendo, buongiorno. Io sto leggendo un po' gli sms che arrivano, insomma sono tutti preoccupati dal costo dell'energia elettrica, cioè tutti si aspettano che in qualche modo si troverà il trucco per alzare i prezzi, e soprattutto la domanda più gettonata è: a quanto costerà un pieno? Ma, abbiamo un esempio concreto, nel senso che oggi abbiamo proprio messo oggi online un sito dove ci si può collegare per, come dire, candidarsi a partecipare a questo progetto pilota che stiamo lanciando insieme a Smart, e per queste prime 100 smart che saranno consegnate ai clienti nella seconda parte del 2010, l'anno prossimo. E nel sito è descritta esattamente anche l'offerta di energia elettrica, e noi abbiamo pensato di fare un'offerta che corrisponde a 25 euro al mese, compreso IVA, tasse, allacciamenti, eccetera, eccetera. Ed è un calcolo che abbiamo fatto, circa la metà di quello che sarebbe il costo a benzina della stessa Smart, nell'ipotesi di percorrere 10.000 km l'anno, che è una percorrenza media, diciamo, per questo tipo di auto. Questo è più, sono più o meno i prezzi. Il problema è che oggi non c'è una tariffa specifica per l'auto, no? Quindi abbiamo dovuto fare abbiamo preferito fare un'offerta flat da questo punto di vista, quindi un'offerta piatta, quindi sarà 25 euro al mese. Però appena ci saranno tante auto sulla strada si impenna, diciamo, il prezzo, no? No, diciamo che prendiamo la tariffa domestica, che quella potrebbe essere di riferimento, che è molto simile appunto a quello al calcolo che abbiamo fatto noi. La tariffa attuale domestica dell'energia elettrica appunto circa consente di fare un pieno a circa la metà, se non a un terzo, se escluderiamo, diciamo, cilindrate più alte rispetto a quello che è il prezzo della benzina attuale. Quindi certamente c'è un grande vantaggio economico da questo punto di vista. Ecco, una oltre che ambientale, scusate, volevo dire, perché ho sentito precedenti, sì. E sul tema ambientale bisogna fare un attimo il punto, nel senso che è vero che certamente si produce energia elettrica da qualche parte, a parte che per esempio noi per la nostra offerta, diciamo, in questo pilota useremo soltanto energia da fonti rinnovabili, ma in ogni caso, anche considerando l'attuale efficienza del parco termoelettrico italiano, l'efficienza complessiva dell'auto elettrica è molto superiore a quella del sistema dell'auto, diciamo, a combustione interna, perché il punto debole è appunto l'efficienza del motore, del powertrain tradizionale, che è molto meno efficiente rispetto al motore elettrico. Abbiamo fatto dei calcoli che si fanno come in letteratura, c'è un risparmio, diciamo, di efficienza di energia primaria dell'ordine del 40%. Però rispetto a che cosa il risparmio? Energia consumata, proprio energia, diciamo, e se vogliamo parlare anche di emissioni, al di là delle emissioni che si azzerano dentro le città, quindi parliamo di polveri, di NOx, diciamo, delle emissioni inquinanti, anche in termini di CO2, usando appunto il parco termoelettrico italiano medio di oggi, c'è un risparmio in termini di CO2 di circa il 50%. Quindi il beneficio ambientale c'è già oggi in ogni caso, e ci sarà sempre di più continuando come facciamo a sviluppare fonti rinnovabili, eccetera. Ecco, Cesare ci ricorda che non abbiamo risposto alla domanda sull'evoluzione delle batterie in un sms. Noi in realtà abbiamo risposto, ma durante la borsa, per cui non l'abbiamo detto in diretta. Mario? Allora, è vero, le batterie per i cellulari hanno fatto grandi progressi, dai primi cellulari alle batterie che utilizziamo ormai da 5-6 anni a questa parte, sono quelle agli ioni di litio, che sono quelle candidate a motorizzare le vetture del futuro. E cosa è successo? Che i cellulari hanno iniziato a assorbire meno energia, le batterie agli ioni di litio sono diventate molto efficienti, ma più in là non si riesce molto ad andare a rendere ancora più dense in termini energetici le batterie attuali, per cui abbiamo un problema di peso, di durata stessa della batteria, che non va dimenticato che poi un pacco batterie pesante 250-300 kg ogni tot chilometri, ogni 20.000 km va smaltito. Ma tra l'altro, infatti, e questo lo volevo chiedere a Renault, qualcuno sollevava il problema, cioè in rete, via SMS, nel caso di incidenti non sono pericolose una batteria da un metro cubo? Cioè non è pericolosa una batteria che si rompe o una batteria che si danneggia, può uscire del liquido? Beh, ci sono, diciamo che c'è una serie di crash test sulle auto prima che vadano in strada, che... Voglio dire, se Mattessone è stata una macchina che appena fa un incidente scoppia, sarebbe un disastro per le nostre città. Però mi rendo conto che il problema teorico, Mario probabilmente sa meglio di me. Probabilmente le batterie di ioni di litio, che per quanto siano potenzialmente esplodenti, è molto meglio avere una batterie che rispetto al motore a scoppio, che 80 ecco. litri di benzina. Certo. Busquet, insomma, siamo tutti d'accordo. È una bella vampa. Sì. Effettivamente, come l'abbiamo detto, il semplice fatto di avere un serbatoio con 80 litri di benzina magari era un problema anni fa, si poneva la domanda se esplode qualcosa. Oggi nessuno ne parla più perché è una tecnologia adesso che è completamente sotto controllo, e naturalmente tutti i costruttori, non soltanto noi, metteremo il più grande sforzo per avere un livello di sicurezza assolutamente uguale a ciò che abbiamo oggi. Su questo non ci sarà nessun compromesso. Certo, scusa Luca, parlavamo di batteria prima, la domanda era giusta, nel senso che parlavo anche con Mario prima, la batteria è il cuore dell'auto elettrica, cioè sarà veramente, se si vince quella sfida lì, si riesce ad andare avanti, si è vinto buona parte della partita. C'è molta ricerca sulla durata delle batterie, anche sulla dimensione, immagino, però certo, l'efficienza in generale, che è la stessa cosa. Nova Lab 24. Bentornati, stiamo discorrendo di macchina del futuro, di auto del futuro, di auto elettrica. Abbiamo in collegamento Claudio da Milano, buongiorno. Salve, salve, complimenti per la trasmissione. La mia domanda era semplice, e per le macchine a energia solare non sarebbe anche quella una buona alternativa? Ah, sarebbe un'ottima alternativa, solo che non ci sono in questo momento modelli sul mercato, almeno insomma. Ma ci fanno vedere ogni tanto questi prototipi, sì, di auto che si alimenta, e poi la Prius ha un pannello fotovoltaico serve soltanto per i servizi di bordo, perché l'energia prodotta da un pannello fotovoltaico non è tale da poter muovere un veicolo di una massa importante. Probabilmente avrà visto dei prototipi ultra leggeri utilizzati, sì, in circuito, però sono vetture che pesano poco più di una bicicletta. Sì, al momento serve per alimentare il condizionatore. Serve per alimentare alcuni servizi di bordo. Ci vorrebbe un pannello troppo grosso per l'auto. Un tettone enorme. Al momento. No, vabbè, però insomma sull'efficienza va bene tutto. Al momento, anche a livello teorico è complicato. Un altro ascoltatore ci chiede perché non si mettono sulle auto delle prese d'aria con delle ventole che girano mentre si corre, e in questo modo si produce energia. Mauro da Venezia. È un'idea sicuramente singolare. È un po' come soffiare con un phon su una barca a vela. Non funziona. Ci sono altri sistemi per recuperare l'energia. Frena. Però insomma, il bello è anche che insomma ognuno si deve inventare. Cioè, meno. Anch'io ci ho pensato per un secondo, però effettivamente poteva essere. Infatti corro e produco energia. Ma poi tu mi prendevi in giro sul fotovoltaico sul tetto, però se paragoni l'efficienza di oggi a quella di 10-20 anni fa, cioè, oppure un cellulare del 92 grosso così, con quello che abbiamo adesso, ti fa capire che possono succedere tantissime cose, magari gran parte di quelle che abbiamo detto oggi si riveleranno poi false o il contrario, è difficile. C'è Bruno da Roma che ci dice che ha avuto un blackout, che in questo momento è in blackout, cioè probabilmente nella sua zona dove abita. Io volevo chiedere un'ultima cosa, ma proprio un secondo, a Valcalda. Chiaramente lì non ci sarà rischio di blackout per una centralina. Il rischio normale di una rete elettrica, quindi molto molto basso. Molto molto basso. Beh. Ecco, noi cosa ci proponiamo? Ci proponiamo di tornare sull'argomento, vero Mario? Assolutamente. Ci proponiamo di sentire un po' tutti i produttori. Tu tra l'altro, come una previsione così, che resterà nella storia? Cioè, ti aspetti tra 10 anni strade piene di auto elettriche? Non più del 5%, anzi il 3%. Guarda, la Commissione Europea mi pare che stimi al 2020 un 15-20% nelle città più industrializzate, nei paesi più industrializzati. Quindi i paesi occidentali. Beh, la Commissione Europea poi parla un po' di noi qui. Vabbè, insomma. Come meno si supererà il 5%. quindi Mario, globalmente, quindi, quindi il gioco delle statistiche è tra Mario e la Commissione Europea. Va bene, io vi ringrazio, ringrazio di essere intervenuti Jacques Busquet, direttore generale di Renault, Alessandro Bartolini, responsabile dei sistemi di automazione di Adwea, e Andrea Valcalda, responsabile ambiente e innovazione di Enel. Sul Twitter trovate il sondaggio e trovate un po' di articoli online. Noi ci sentiamo domani alle 16. Ciao a tutti.